Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Del legame tra commercio e città abbiamo parlato più volte, l'esistenza o meno, ma anche la tipologia di esercizi commerciali in un quartiere influenza il suo sviluppo, la sua identità, il suo contributo alla città, e questo vale dalle vetrine delle vie del lusso ai mercati rionali. Proprio su questi ha deciso di puntare la città di Milano con un grande progetto di rilancio che vi raccontiamo tra pochissimo. E poi tendenza trasparenza nel design e nell'architettura, dal divano alle case, basta che si veda attraverso. Riflessione finale dedicata ai trend 2020, quale anno ci aspetta nel mondo dei consumi. Venga, l'aiuto io. Scendiamo e via, si parte. Incrociamo la vedova del tamburo della banda. Da quando lui è morto porta la giubba di suo marito. Attento, opla, toli, segno della macelleria equina per suo orecchio. Il signore che ride è il marito della fioraia. Ha delle rucchette maliziose intorno agli occhi. Ah, da pasticciare ci sono le caliche Piero Grumò. Sente che profumo. È Peppone che fa gustare i suoi meloni ai clienti. Assaggiate i miei meloni, venite. C'è Marion che fa il gelato alle mandorle. Ora passiamo davanti alla salumeria. 79 il prosciutto con l'osso, 45 il guanciale salato. Ora il negozio dei formaggi, 12,90 il picadon dell'Ardèche, 23,50 il cabecù del Poitou. Dal macellaio c'è un bambino che guarda un cane, che guarda i polli arrosto. Ecco, siamo davanti al chiosco dei giornali, davanti alla fermata della metropolitana. Io la lascio qui, arrivederci. Punta sui mercati coperti con un progetto complessivo di rilancio per quelli che vuole fare diventare nuovi luoghi di aggregazione sociale, puntando non solo sulla spesa ma anche su ristorazione, eventi, cultura e servizi, dalle visite mediche alle riparazioni dei device elettronici. Spazi sempre più ibridi, con progetti che vanno dalla portineria di quartiere alla cucina di comunità, dai laboratori alla ciclofficina, sul modello di altre città europee e non, come la Boccheria di Barcellona oppure il Chelsea Market a New York. Esempio di successo a Milano del resto il rilancio già avvenuto del mercato in Darsena, così come l'apertura prevista in aprile del mercato centrale sul modello di quello di Firenze, Roma e Torino. Ne abbiamo parlato con Cristina Tajani, assessore al commercio del Comune di Milano. La premessa è una considerazione sulla storia di queste strutture, nate nel secondo dopoguerra, quindi a cavallo tra la fine degli anni 40 e gli anni 50, avevano lo scopo di offrire ai cittadini milanesi prodotti a prezzi calmierati raggiungibili da tutti. Nel corso del tempo questi presidi di proprietà del Comune di Milano sono diventati dei punti di riferimento per i cittadini dei quartieri, assumendo anche la caratteristica di luoghi di aggregazione, in qualche modo di socialità, dove il rapporto tra il cliente, l'utente, il cittadino e il commerciante spesso non era soltanto un rapporto strettamente commerciale, ma di conoscenza, di prossimità, di socialità. Noi abbiamo voluto enfatizzare nel nuovo piano questo aspetto, lavorando anche al rinnovo delle strutture che, come gli ascoltatori possono immaginare, i cittadini milanesi si sanno, sono in alcuni casi obsolete, hanno bisogno di un'importante manutenzione. Abbiamo quindi deciso di mettere a bando in una prima fase tre mercati, chiedendo la compartecipazione dei privati, preferibilmente gli operatori già esistenti, che in molti casi si sono costituiti in consorzio, per costruire insieme, in un'ottica di coprogettazione, la nuova fase, diciamo, sia dal punto di vista del rinnovo delle strutture, sia dal punto di vista non meno importante dell'integrazione tra le attività commerciali e attività di carattere sociale, culturale, di aggregazione, appunto di punto di riferimento per i quartieri. Questo anche in base alla lettura di una tendenza che da tempo viene osservata da chi si occupa di consumi, di retail, dell'emergere di spazi ibridi dove le attività commerciali si mescolano e si intersecano con attività di carattere più puramente, diciamo, sociale, aggregativo, anche culturale. Per noi è una tendenza vincente, anche perché come pubblica amministrazione, oltre all'aspetto di promozione del commercio nella nostra città, abbiamo a cuore questo elemento di presidio, diciamo, di socialità, di luoghi che contribuiscono persino a generare sicurezza in alcune aree periferiche. Quindi l'obiettivo è esattamente questo: rinnovare le strutture, farlo possibilmente insieme agli operatori già presenti in una logica di coprogettazione e rinnovare anche l'offerta commerciale e culturale di intrattenimento di questi luoghi. Devo dire che la prima fase del progetto ha dato risultati molto positivi. I tre mercati con cui siamo partiti, che sono mercati storici, alcuni centrali, altri più periferici, penso tra i mercati centrali a quello di Piazza Wagner o a quello di Piazza Lagosta nel quartiere Isola e uno più periferico in Morsenchio, sono stati tutti aggiudicati da consorzi che vedono presenti anche i commercianti, diciamo, attuali, quindi non ci sarà un processo, diciamo così, di gentrificazione di questi spazi. Il nostro obiettivo era coinvolgere anche gli operatori storici. Tutti i progetti prevedono interventi strutturali e interventi sul modello, diciamo, commerciale. E al momento l'apprezzamento dei cittadini è importante. Nei prossimi mesi procederemo con altre progettualità che riguardano altri spazi, penso al mercato quasi abbandonato di Viale Rombon, oppure al mercato di Piazza Ferrara, al Corvetto, che è un quartiere su cui l'amministrazione sta investendo molto in termini di riqualificazione. E l'obiettivo è comunque lo stesso: rinnovo delle strutture, rinnovo dell'attività, diciamo, commerciale, con una forte enfasi sugli aspetti sociali e di presidio del territorio. Tra l'altro un'offerta che andrà anche incontro alle nuove istanze di consumo, dallo street food all'attenzione nei confronti della riduzione della plastica. Piazza Lagosta, è stato annunciato, sarà il primo mercato plastic free. Sì, questo è una linea di indirizzo su cui l'amministrazione sta lavorando molto, che proponiamo sempre anche agli operatori privati, e il fatto che i vincitori del bando abbiano deciso di sposarla ci fa particolarmente piacere, perché la campagna Milano Plastic Free lanciata dal comune sta avendo successo, si estende, sono tantissimi gli operatori anche della somministrazione, i pubblici esercizi che hanno aderito, e questo aspetto della amministrazione nei mercati è l'altro elemento di interesse. Quindi nei nuovi progetti ci sarà spazio per la vendita tradizionale, ma anche per la somministrazione, la ristorazione, per spazi dove si possa passare serenamente una serata anche mangiando qualcosa, possibilmente prodotti degli stessi commercianti che vengono poi serviti ai clienti già pronti. In che misura il tema delle periferie, che sappiamo essere di grande attualità in Italia come nel resto del mondo, è strettamente correlato ad una visione complessiva del territorio che tenga conto anche della sua dimensione sociale, ma così come economica, commerciale? E questo è un aspetto importantissimo che sta guidando tutte le politiche messe in campo dall'amministrazione comunale. L'idea è quella di evitare la frattura tra il centro urbano e le aree più periferiche, e quindi offrire possibilità di intrattenimento e di vita anche nei quartieri più lontani dal centro. I mercati comunali, essendo appunto anche luoghi di aggregazione, possono rappresentare dei nuovi centri, dei nuovi presidi dei quartieri più periferici, offrendo un servizio di buon livello, offrendo anche possibilità di intrattenimento. Negli scorsi mesi abbiamo sviluppato un programma che si chiama Mercato Animato e che offriva, con un piccolo finanziamento anche del comune, attività di intrattenimento negli spazi dei mercati, e quindi anche agendo, diciamo, sulla leva del commercio e sulla ricerca riqualificazione delle attività di commercio e di retail si può contribuire a generare maggior socialità e quindi di conseguenza anche maggior sicurezza, rendendo vivi i luoghi meno vicini, diciamo a Piazza Duomo, al centro della città, anche in orario serale, per esempio. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, nella seconda parte ripartiamo dalla trasparenza, nuovo mantra dei consumi e nuova tendenza per il design e l'architettura. Tra pochissimo, restate con noi. Essere e avere. Come sta, eccellenza? Sto qui perché devo presiedere una conferenza al vertice. Siamo qui riuniti nel palazzo di vetro. Ha sentito il vetro? Sa, è tutto il palazzo è così. È un diplomatico che è inciampato. Sì. Da qui godiamo una vista meravigliosa, uno spettacolo magnifico. Tutte le cascate del Niagara sono di fronte a noi. Cosa? Le cascate del Niagara? Niagara, sì. Vuol sentire la cascata? Faccio aprire una finestra. Fai la cascata. Ma non era prevista la cascata. Fai la cascata. A bocca. Ma che bocca, vada. Inventa. Disgraziato, cos'è? Pronto? Ha sentito la cascata? Non capisco! Cosa desiderava, eccellenza? Oh, direttrice, senta, per quell'affare del mezzo milioncino, sa, da qui spedire dei soldi in Italia è un po' complicatuccio da fare. Le dispiacerebbe se glieli porto io fra qualche giorno? Focus sui trend. Retail al design fino all'architettura, la parola d'ordine è trasparenza, un concetto allineato ai consumi più avanzati in termini di informazione al consumatore, responsabilità etica, ma come metafora tradotto anche dal punto di vista dei materiali, quindi spazio al vetro, al vinile, a tutti i materiali che permettano di vedere attraverso, un'ispirazione concettuale che ha prodotto e produce casi davvero interessanti come quelli che ha raccolto per noi Lucia Kromecka di Future Concept Lab. Ciao Lucia, bentrovata. Buon anno a tutti. Iniziamo dal retail, con un negozio che appartiene al mondo del lusso e qui invitare la trasparenza è significativo. Siamo ad Amsterdam, raccontaci. Allora, è stato nel 2016 che l'acclamato studio di architettura MVRDV ha progettato ad Amsterdam Crystal Houses. Si tratta di una tipica casa schiera con la facciata completamente in vetro, situata sul canale PC Hoogstraat. Un tempo era un quartiere residenziale, ma ora è la via del lusso di Amsterdam ed è proprio in questo edificio che durante il mese di luglio di quest'anno che è stata inaugurata la nuova boutique di Hermès. Ecco, le foto della facciata in vetro che riprende la trama in mattoni del muro originale sta facendo parlare tutti, perché i mattoni di vetro trasparente sono incollati con un speciale adesivo, anche questo trasparente è resistente ai raggi UV, che trasformano questo edificio in un capolavoro di alta artigianalità. In più i mattoni di vetro si dissolvono in altezza facendo visivamente un tutt'uno con i mattoni tradizionali, dando l'impressione che l'edificio sta galleggiando per aria. Oltre all'effetto estremamente sofisticato, davvero, le luci che illuminano la facciata durante la notte fanno sembrare che lo store sia un vero e proprio gioiello, perfetto per un marchio di lusso. Un'altra cosa che bisogna dire, e questo è fondamentale, la distanza emotiva tra il cliente e il brand di lusso si accorcia proprio grazie all'effetto see-through, che dà la possibilità a chiunque di osservare i pezzi della collezione del marchio rimanendo all'esterno del negozio. Restiamo nel mondo del lusso con un prodotto, questa volta un divano molto particolare. Come sempre trovate tutte le immagini nella gallery sulla nostra pagina Facebook. Lucia. Davvero spettacolare, bisogna vederlo. Il Balenciaga Sofà è stato presentato qualche mese fa in occasione di Design Miami 2019 ed è un divano imbottito con vestiti vecchi del marchio di moda Balenciaga, infatti si vedono i tag. Ogni seduta è caratterizzata da un involucro trasparente in vinile che fa intravedere l'imbottitura. Non si tratta di poliuretano o vata sintetica, ma vestiti dismessi, i fondi di magazzino e scarti di fabbrica provenienti dalla produzione di Balenciaga. Una idea veramente fantastica. Persino l'involucro trasparente che è stato usato è recuperato dai materiali residuali delle opere del designer di mobili Harry Nureyev, quello che ha collaborato e progettato il sofà per Balenciaga. Anche se difficilmente entrerà in produzione, il sofà proposto vuole porre proprio l'attenzione sulla questione ambientale, partendo dalla filiera. E come si legge in un comunicato stampa di Balenciaga, il Balenciaga sofà reinventa un divano come esempio di design attento all'ambiente, dando una seconda vita a capi danneggiati o altrimenti invendibili. Parliamo quindi di sovrapproduzione, di invenduto e di riciclo, temi molto importanti in questo momento per la filiera, appunto, del mondo della moda. Con il prossimo caso ci spostiamo invece nell'outdoor e nel mondo dell'accoglienza anche. Abbiamo parlato anche altre volte di cabine prefabbricate. Ecco, Immerso è un prefabbricato innovativo, una cabina collocata per ora su un altopiano di circa 1200 metri in Alta Val Cisone in Piemonte. Gli architetti Fabio Vignolo e Francesca Turnaturi hanno immaginato e progettato questo modulo abitativo immerso nella natura, dove è possibile ammirare il contesto circostante attraverso le sue pareti e il suo tetto completamente trasparente. Possibile è veramente godere durante la notte la vista del cielo stellato, davvero spettacolare. La cabina si monta in solo 2 ore, è veramente un riparo temporaneo e contemporaneo, come dice il progettista. La struttura è realizzata in pannelli di multistrato, è un'estrema facilità di montaggio perché veramente non c'è bisogno neanche dei utensili. Però c'è anche un'altra cosa da dire. L'obiettivo principale del progetto è sperimentare un nuovo genere di accoglienza turistica, seguendo un trend che sta prendendo piede a livello internazionale con il termine glamping, camping di lusso, confortevole e molto accessoriato, in questo caso anche molto spettacolare grazie alla sua trasparenza. Glamour più camping, dunque, per questa tendenza dell'outdoor. Chiudiamo con l'arte, un'installazione che mette in scena in modo molto efficace il concetto di trasparenza per un messaggio di inclusione in questo caso. Un progetto davvero poetico. L'artista e designer olandese Sven Singenden Harkoff ha immaginato una bandiera universale, tutta trasparente. Così non fa differenza tra le persone e diversi gruppi di popolazione. E si chiama Usawa questa installazione, che vuole rappresentare l'equilibrio e l'uguaglianza nel mondo. E Usawa significa proprio equilibrio. È stata realizzata in collaborazione con il Museo dell'Arte Moderna di Ischelstein nei Paesi Bassi. E l'umanità, a prescindere dai confini, dal colore della pelle, dalle preferenze sessuali, dalla religione e le altre etichette imposte dalla società, è quello che rappresenta il nuovo simbolo della bandiera trasparente. E la trasparenza diventa sinonimo dell'universalità. Lucia Cromesca, grazie, alla prossima. Alla prossima, buonasera a tutti. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Buon anno innanzitutto, Francesco, ben trovato, come apriamo questo 2020? Grazie, buon anno a te Maria Luisa e a tutti i radioascoltatori. Ma apriamolo ragionando proprio sull'anno che verrà, no? Citando Dalla, nel senso che il 2020 sia simbolicamente come data, no? Questo 2020, ma anche dal punto di vista della nostra analisi sociologica, sarà un anno che davvero presenterà dei cambiamenti molto profondi. Diciamo che il modo digitale, che è stato un po' il segno di questo decennio, quindi tutto molto soggettivo, molto personalizzato, appunto un modo, lascerà un po' il posto al mondo e anche direi proprio al mondo fisico e al mondo delle comunità e a questa dimensione collettiva che non è il collettivismo ideologico, ma è il dover per rispettare dei valori che sono dei valori più, se vogliamo, sociali, no? Quindi la sostenibilità, il rispetto nel lavoro, insomma, sono tutti temi che abbiamo affrontato lo scorso anno in alcuni momenti, ma che dovrebbero essere la linea guida per questo prossimo anno. Sono i valori che chiedono, appunto, lo abbiamo detto tante volte a gran voce, le nuove generazioni, soprattutto nell'epoca del presente continuo. Per rifarmi al titolo di un saggio molto famoso, le nuove generazioni chiedono forse un po' di futuro, qualche promessa, qualche garanzia in più che nello scorso decennio non abbiamo dato loro. Sì, chiedono anche qualche impegno, c'è una chiamata anche alla responsabilità, cioè sono tutti valori che noi avremmo immaginato qualche tempo fa tipici di generazioni più mature, no? Mentre i ragazzi, i giovani, ce li siamo sempre immaginati come più leggeri, legati magari a un'idea di divertimento nella vita o di successo immediato. Oggi le parti si sono capovolte, no? I ruoli si sono capovolti e questo è veramente un cambiamento epocale. E anche le aziende devono esporsi, devono avere il coraggio di dire cosa intendono fare. Sì, le aziende devono prendere posizione, no? Più che posizionarsi, lo abbiamo detto più volte, prendere posizioni vuol dire scegliere alcuni valori che però riescono anche a rispettare, quindi c'è sempre il problema della credibilità e quindi costruiscono la loro unicità e la loro forza proprio su pochi valori molto chiari da condividere, ma mi verrebbe da dire per un anno intero almeno e non per qualche mese. Grazie a Francesco Morace, grazie a Valeria Bernardi in regia. Essere Avere torna domenica prossima. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.